liberi e per sempre, liberi anche politicamente, non c'è logica, non c'è niente. Liberi sono il vento con le onde, liberi come due ladri nella notte, non fermarti, non è tardi, resta fuori che ho bisogno di parlarti, di guardarti, di baciarti e di toccarti e di essere liberi senza dover spiegare niente, veramente di mare, liberi da morire finalmente, liberi di tornare tra la gente.